si comincia con Interno familiare il 9 giugno con Yaya Forte e Xavier Girotto, tratto da Il mare non bagna Napoli di Anna Maria Ortese, lo spaccato di una famiglia napoletana tipo che viene sconquassata dal ritorno di una vecchia fiamma della madre in città e che sembra poterle cambiare la vita, ma così non sarà. La sua vita rimarrà la stessa e tutte le piccole cattiverie a volte tipiche di alcune famiglie ritorneranno a galla, e tutto questo sarà ovviamente interpretato magistralmente da Yaya, che è una grande artista, e dalla musica di Girotto. Quindi se vogliamo una specie di presepe nero, presepe dark della Napoli di oggi. Il 14 giugno invece abbiamo Laura Curino e Renato Sarti nel Rumore del Silenzio, uno spettacolo molto intenso, anche multimediale, con anche un contributo di immagini importanti, nel quale Laura Curino darà voce alla moglie, alla vedova di Tinelli, dell'anarchico diciamo legato a tutti i fatti degli anni di piombo, e quindi ci sarà anche, si attraverseranno anche i fatti legati all'attentato di Piazza Fontana, e si darà voce ai parenti delle vittime attraverso Renato Sarti. Sarà sicuramente un momento intenso, ma un momento anche fatto di speranza, di sguardo verso il futuro e la memoria conservata per non dimenticare, per non ripetere gli errori, con due artisti che sono grandi nomi del teatro contemporaneo. Sì, il 23 giugno invece cambiamo completamente registro, e con Giovanni Veronesi, che tutti conoscono come attore, soprattutto come regista, ricordiamo anche forse uno dei suoi film più famosi, Il Mio West, con Harvey Keitel e David Bowie, insieme a Musica da Ripostiglio, che sono una band affiatatissima che segue Veronesi in diversi spettacoli da alcuni anni, avremo una serata all'insegna degli aneddoti sul mondo del cinema, dello spettacolo, un continuo dialogo di Veronesi col pubblico, un continuo dialogo tra la parola e la musica, con improvvisazioni, con siparietti, quindi una cosa veramente frizzante, molto, molto emozionante, molto divertente, e anche lì con alcuni momenti di riflessione. E poi il 30 è il tuo idolo, eccolo, Natalino Balazzo. No, qui leggo leader, individuo scelto da un gruppo perché dice agli altri cosa fare, anche se non ne ha la minima idea. Produttività: più è alta la tua, più ci guadagnano gli altri. Il western, togliendo i colpi d'arma da fuoco, diventa un documentario sulle catene montuose del Nord America. E le regole, chi le fa è già in vantaggio su chi le deve rispettare. Poi lui conclude sempre. Balazzo è sempre Balazzo, non ha bisogno di definizioni. Sì, quello non lo perdo. Torna a trovarci, credo, per la terza o quarta volta, insomma. Posso dire che siamo ormai amici, una persona straordinaria, e si è inventato questo dizionario Balasso, che è questo grande libro che troverà spazio al centro del palco, dove lui diciamo racconterà e spiegherà molti lemmi contenuti in questo dizionario, con la sua visione della vita, ovviamente, quindi un po' dissacrante, certo. un po' anche cinica, e in un certo senso anche Natalino ci farà riflettere su quello che a volte diamo per scontato, su definizioni di cui ci accontentiamo che invece meriterebbero una riflessione in più e magari anche un po' di senso critico in più. Quindi risata e pensieri assicurati per il 30 giugno. Poi l'8 luglio abbiamo uno degli spettacoli più in vista di questo cartellone, ovvero Favole al telefono e al pianoforte. Come sapete, l'anno scorso è stato il centenario di Rodari, di Gianni Rodari, e Peppe Servillo si è inventato questo spettacolo di favole al telefono e al pianoforte, con Geoff Westley, che è un grandissimo compositore inglese, arrangiatore, direttore d'orchestra, che ha collaborato con i più grandi, da Hans Zimmer, musica da film, a Peter Gabriel, a Phil Collins in Italia, con Laura Pausini, con De André, con Battisti, con Dalla e tanti altri. Quindi una grande presenza anche a livello musicale, e Westley ha composto musiche originali per questo spettacolo, e ci sarà anche, diciamo, un accompagnamento da parte di un quintetto oltre al pianoforte di Westley, e Servillo si immergerà nel mondo fantastico, fantasioso, suggestivo, emozionante di Rodari, dando vita, forma ai suoni, emozioni, a quelle che sono favole, che alla fine sono favole anche per adulti, se ci pensiamo. Sì, sono favole senza età, senza tempo e senza nessun tipo di confine, sono sempre attuali, questa è la cosa meravigliosa. E poi infine il 12 luglio esatto, il 12 luglio con Lello Arena, altro simpaticone, insomma, che è già venuto a trovarci negli anni scorsi, che quest'anno si è inventato uno spettacolo molto insolito, molto particolare, dedicato a Charlie Chaplin, di cui tutti sanno tutto, uno dei più grandi nomi della storia del cinema, sia come regista, sia come autore, sia come attore, ma pochi sanno che Chaplin è stato un grande musicista. Oltre ad aver scritto tutte le colonne sonore dei suoi film, lui era un violoncellista classico che all'inizio della carriera, giovanissimo, non ci pensava affatto a fare cinema, voleva fare il musicista e aprì una casa di edizioni con un collega pianista e fu un grandissimo fiasco, un fiasco clamoroso. Dopo alcune settimane dovettero chiudere per non finire in prigione e Lello Arena parte da questa storia per raccontare il vero Chaplin, come è iniziato tutto. Da questo errore, da questo fiasco, da questo insuccesso, lui ha cominciato la sua carriera cinematografica. Quando poi si è affermato a livello mondiale, ha cominciato per anni a organizzare delle serate dedicate ad amici selezionati, eccetera, in cui suonava il violoncello con il suo amico pianista e riproponeva la musica che avrebbe voluto suonare, ma che a quel tempo non gli fu possibile fare per questo fiasco clamoroso, potendoselo permettere a quel punto. E ovviamente sì, queste serate erano condite da scherzi, da aneddoti, da storie incredibili. Quindi provate a immaginare chi ha avuto la fortuna di assistere a queste serate, che cosa ha potuto vivere. Sì. Diciamo l'estro, il genio di Chaplin come attore, autore e anche come musicista. E quindi la Lello Arena darà forma, voce, suona tutto questo. Dal 9 giugno al 12 luglio 2021 alle 21 al Parco di Villa Ronchi, la frazione località bolognina di Crevalcore, inserito all'interno di Bologna Estate, la stagione teatrale, tre teatri per te a Crevalcore. Alex Carpani che ha dato, ho voluto proprio dare ampio spazio e respiro a tutti gli spettacoli, perché è un programma veramente molto molto molto eterogeneo, interessante, musica, riflessioni, stare insieme e risate sempre condite in un luogo assolutamente suggestivo. Abbiamo detto così in maniera molto molto tipo catalogo radiofonico, ovviamente online ci saranno tutte le informazioni, puoi dare qualche piattaforma, una volta che l'online è utile lo diciamo, insomma, ecco. Per certo, beh, ovviamente sul sito del Comune di Crevalcore, che è www.comune.crevalcore.bo.it, nella sezione già in home page troverete la stagione teatrale, andando nelle aree tematiche della cultura trovate tutto, e anche nella pagina Facebook del Comune di Crevalcore, che si chiama Comune Crevalcore, dove ci sono tutti i vari aggiornamenti sulla stagione. Un'ultima cosa che tengo a dire: abbiamo deciso di intitolare questa rassegna quest'anno, questo programma, e il polline si posò nel parco. Il polline del teatro si posò nel parco. Questo vuole essere un po' un auspicio, cioè faremo di tutto e speriamo che il pubblico ci aiuti per diciamo avere una forma di inseminazione culturale di un luogo naturale che possa magari continuare anche nel futuro, perché adesso noi andiamo lì perché non possiamo andare, non abbiamo potuto fare la stagione invernale al chiuso, però può essere anche una bella sfida, una bella occasione, certo, per godere del teatro in maniera diversa. Esatto, un'occasione. E io ti auguro buona estate. Ti ringrazio, ci vediamo a Crevalcore, si parte il 9 giugno. Grazie Alex, grazie, buona estate, buon venerdì, ciao ciao.